Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, finalmente venerdì, si conclude la settimana di lavoro per tutti noi, per molti di noi, perché c'è chi lavora naturalmente anche il fine settimana e quindi insomma per chi non sopporta Salva Danaio da domani tutti liberi, per chi invece è l'ascoltatore affezionato della nostra trasmissione oggi ritorniamo naturalmente a parlare del nostro denaro. Oggi parliamo di conti di deposito perché, lo sapete, ne abbiamo parlato tantissime volte, questi prodotti hanno sostituito nelle abitudini di risparmio degli italiani molti prodotti di investimento più tradizionali. E la crisi recente, che speriamo di cominciare a poter dire al più presto, ormai ci stiamo lasciando alle spalle, ha accentuato la ricerca di protezione e sicurezza da parte delle famiglie italiane, anche a costo a volte di non raggiungere remunerazioni soddisfacenti. E così una quota crescente di risparmio è stata dirottata su strumenti di liquidità, titoli di Stato a brevissimo termine, pronti contro termine e appunto i conti di deposito. Su questo segmento l'offerta commerciale negli ultimi anni è andata sviluppandosi notevolmente e ora in pratica tutte le banche sono in grado di proporre questi conti, che per qualcuno sono un parcheggio in attesa di schiarite di mercato, per qualcun altro invece rimangono la forma prediletta appunto di risparmio, perché il denaro è tutto lì, ben visibile, si sa quanto si mette, quanto si può guadagnare alla fine dell'anno in un determinato arco di tempo e insomma questi conti si scelgono per la loro trasparenza. Qualcuno poi ha pensato, strada facendo, di rendere questi prodotti un po' più dinamici. Amici, oggi c'è chi dà la possibilità di avere rendimenti un po' più alti dei tassi di mercato, a patto appunto di vincolare il deposito per un certo periodo di tempo, chi paga gli interessi in anticipo, oppure c'è chi associa al conto una soluzione di investimento per renderlo maggiormente remunerativo. Allora noi oggi esploreremo questo campo con due banche e io saluto e ringrazio di essere con noi questa mattina Massimo Doris, amministratore delegato e direttore generale di Banca Mediolanum, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E ringrazio di essere ritornato da noi Vincenzo Tedeschi, responsabile marketing e prodotto IVBank, appunto. Buongiorno Tedeschi, bentornato. Buongiorno a tutti. Salve. Allora, naturalmente microfoni aperti ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, per intervenire con le vostre domande, che in alternativa alla diretta potete scriverci alle 349 238 6666. Abbiamo già dato qualche anticipazione di borsa nel corso del giornale radio, rivediamo un po' stamattina i mercati azionari come stanno andando. Male, dopo le discese abbastanza forti di ieri, stamattina i listini hanno pensato di riaprire la seduta con un rimbalzo che era anche nell'ordine di mezzo punto percentuale su alcune piazze. Adesso invece ci hanno ripensato e riscendono di nuovo: Parigi meno 0,6%, Francoforte meno 0,7%, Londra meno 0,7%, Milano meno 0,22%. A Milano vediamo il segno più su tutte le banche che a fasi alterne soffrono e poi recuperano ampiamente. Oggi è la giornata del recupero, guida il plotone dei titoli bancari e finanziari Monte dei Paschi più 2,50, Intesa più 2,22, UbiBanca più 1,53, Fondiaria più 1,33, Unicredit più 1,26%, soprattutto Piazza Cordusio un po' sotto riflettori in questi giorni anche per l'ingresso nel capitale del fondo di Abu Dhabi, e poi Campari più 0,8, Banco Popolare più 1,16, Ansaldo più 0,38%. Segno meno invece per Fiat, che perde quasi 3 punti, Enel ne perde 2, Pirelli meno 1,49%. Mercato dei cambi sotto i riflettori, anche perché probabilmente se ne discuterà anche nel fine settimana in Canada, nel G8 e nel G20. L'euro sul dollaro quota 1,22,69, l'avvio a favore del dollaro stamattina era stato un po' più sprint, poi la moneta unica europea ha riperso tono sul biglietto verde e quindi 1,2270 punti il rapporto di cambio in questo momento. Direi di lasciare la borsa e di andare subito al tema di questa mattina. Riesploriamo un po' l'offerta commerciale che ci circonda in tema di conti di deposito. Nel corso degli ultimi anni, sempre più risparmiatori impauriti dai listini e scontenti dei rendimenti dei titoli di Stato hanno deciso di parcheggiare il proprio denaro su un conto di deposito. Semplicità, costi minimi di gestione e remunerazione sono stati gli ingredienti che hanno contribuito al successo di questi prodotti e che hanno spinto allo stesso tempo le banche a diversificare ed ampliare la propria offerta. Certo, i rendimenti non sono più quelli degli anni scorsi, tuttavia, passata la tempesta finanziaria, molti istituti hanno cercato di attrarre nuove masse e nuovi clienti anche attraverso soluzioni alternative. Ed è proprio la molteplicità di prodotti presenti sul mercato che rende più difficile valutare quale sia effettivamente il più conveniente o il più adatto al proprio profilo. Come calcolare, ad esempio, il rendimento al netto delle imposte? Quanto si ottiene realmente affidando i propri soldi ad un conto di deposito? 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, per le vostre domande. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Allora, al di là dei tradizionali conti di deposito, quelli molto semplici di cui abbiamo parlato tante volte, oggi abbiamo cercato invece di andare ad esaminare nel dettaglio due prodotti che hanno una tipologia un po' diversa, nel senso che sono agganciati, come dicevamo prima, a soluzioni di investimento, proprio perché l'offerta commerciale, appunto, per tentare di arginare la crisi, per soddisfare la ricerca di protezione e sicurezza da parte delle famiglie, appunto, l'offerta si è resa, come dicevo prima, un po' più dinamica. E allora Mediolanum, per esempio, questa è peraltro stata anche una storia che ha suscitato grande attenzione da parte di tutti, ha pensato di agganciare il conto corrente ad una polizza vita. Massimo Doris, io comincio subito con lei per un po' farci raccontare anche da lei come è nata questa trovata, mi passi il termine, anche se mi rendo conto che è un po' brutto, perché ovviamente anche a scanso di equivoci so che voi ci tenete molto a ribadire il fatto che proprio per questo questa associazione ad una polizza vita, il conto di cui stiamo parlando non può essere definito esattamente conto di deposito, però sulla base della remunerazione che offre in realtà è molto vicino ai conti di deposito. E allora ce ne spiega un po' la dinamica? Sì, allora effettivamente il nostro è un conto corrente vero e proprio con tutti i servizi che un cliente normalmente usa. Da dove arriva l'idea di abbinare la polizza al conto corrente? In Italia i conti correnti e i conti di deposito pagano una tassazione sul rendimento del 27%. Tutti gli altri strumenti finanziari pagano il 12,5%. Noi già negli anni 90 avevamo fatto una cosa simile quando non eravamo ancora banca e creato una cosa che avevamo chiamato fondo corrente. C'era quindi un conto corrente che era di Comit allora, abbinato a un fondo monetario nostro, quindi l'eccedenza del conto finiva nel fondo monetario che dava un rendimento superiore. Ora, il problema di questa soluzione era che era il rendimento del fondo lo so solo a posteriori, non posso dichiararlo prima. Attraverso invece una polizza vita, per come è strutturata, posso dichiarare di tre mesi in tre mesi qual è il tasso che darò al cliente, quindi diciamo che è un fondo che mi dà questa possibilità di dichiarare al cliente chiaramente quale sarà il suo rendimento di tre mesi in tre mesi, in modo anticipato. Tra l'altro, per poter garantire tutto questo, questo conto deve garantire a sua volta anche una soglia minima di deposito, poi lo spiegheremo. Mi chiedo però, Doris, se l'obiettivo di questa polizza è solamente quella di garantire la remunerazione al conto corrente o se comunque poi questa polizza associata al conto corrente esercita anche la sua funzione, che è quella di polizza vita. Allora, l'obiettivo principale è quello di dare un rendimento e di sfruttare il fatto di essere tassato al 12,5%. Poi, essendo una polizza vita, è una polizza di una compagnia di assicurazione, l'investimento, il denaro che c'è dentro è garantito dalla compagnia di assicurazione e questa polizza non ha alcun costo per il cliente. Cioè, il fatto della polizza è solo una forma tecnica che abbiamo trovato per poter far sfruttare il la fiscalità più favorevole, più incentivante. E abbinata al conto corrente, ma il cliente usa il conto corrente come se la polizza non esistesse. A patto che però abbia una giacenza minima di 15.000 euro. Poi ci torniamo su questi aspetti. Doris, d'accordo. Intanto le ho fatto un po' raccontare meglio la dinamica di questo prodotto, che peraltro è stato anche oggetto di un'istruttoria da parte dell'antitrust lo scorso anno quando è stato lanciato, perché la pubblicità doveva essere meglio chiarita. Poi, se vorrà Doris, rispondere anche su questo. Intanto il tema della fiscalità è molto interessante, perché Vincenzo Tedeschi, anche strutturando i nuovi prodotti ad alta remunerazione di IVBank, voi avete pensato bene di far leva su questo, ma vedo che anche altri conti di deposito di altre banche, in realtà c'è chi ha agganciato il pronto controtermine al conto di deposito e altre strutture ancora. Il tema è proprio quello, quindi mi pare di capire che a tassi di mercato così bassi l'unica leva era quella, andare ad agire sulla fiscalità, mi sembra. E voi ci avete pensato, per esempio, con IV Power Investimento. Sì, non è solo un problema di fiscalità, perché secondo noi è anche un problema di chiarezza. Da sempre abbiamo pubblicizzato i tassi di interesse netti e questo proprio per evitare questa differente interpretazione della fiscalità che, come giustamente avete ricordato in trasmissione, sui conti di deposito è del 27%, mentre sugli investimenti è del 12,50%. Noi da subito abbiamo scelto la modalità di sfruttare degli investimenti vincolati a scadenza per sfruttare questa fiscalità più bassa e per dare un rendimento più alto al cliente. Il nostro prodotto IV Power si articola in tre differenti linee di scadenza e sono a 3 mesi, a 6 mesi e a 1 anno e così permette di fatto di comprare un titolo di Stato, un bot, un vero e proprio bot che grazie a questa fiscalità permette di dare un tasso più alto al cliente. Infatti quindi fa leva proprio sulla fiscalità che è inferiore perché comunque oggi anche agganciando ad un conto di deposito un bot non è che si arriva tanto all'1,5% netto. Come si fa a garantire questo rendimento, Tedeschi? Sì, l'innovazione ulteriore è stata poi agganciare al bot il prestito titoli, quindi di fatto il cliente che acquista il bot poi lo rende disponibile alla banca per operazioni di tesoreria mediante appunto il contratto di prestito titoli e la banca utilizza questo bot per i suoi abituali impieghi, così come si fa con la liquidità depositata sui conti correnti, riuscendo a restituire al cliente un extra rendimento rispetto al tasso base del bot. Ad esempio il bot a 1 anno adesso rende scarso l'1% netto, noi con questo meccanismo riusciamo ad assicurare quello 0,50 in più. C'è stata un'asta di titoli semestrali questa mattina, i bot per la verità appunto a 6 mesi hanno reso ancora meno, è lo 0,97% lordo, per cui è chiaro che al netto è ancora meno. E allora noi speriamo di aver fatto un po' di chiarezza, perché tra l'altro ho fatto spiegare anche un po' la dinamica di questi due prodotti, che non è che siano poi, non è niente di difficile, ma non sono neanche i tradizionali conti di deposito che tu ci metti 100 euro e sai fra 3 mesi quanto di renda, secondo appunto della banca, di quanto ti promette, di quanto anche riesce a fare in relazione all'andamento dei tassi di mercato. Il tema è che le offerte sono diventate un po' tutte complesse, anche su strumenti di investimento così semplici all'origine. E allora qualche tempo fa il Corriere della Sera, in un'inchiestina di un collega, sollevava proprio questo aspetto: sono diventati, pur partendo da caratteristiche di strumenti estremamente semplici, più complicati e di difficile comparabilità anche sul mercato, per cui magari adesso ci faremo dare anche da Doris e Tedeschi qualche dritta per capire qual è magari il miglior conto di deposito per noi. Loro parleranno di quelli di casa loro naturalmente, ma magari cercherò di farli anche un po' dissociare dalla non dico dalla mera pubblicità, ma insomma dalla voglia, dal desiderio poi di promuovere di quanto hanno in casa loro, per dare qualche suggerimento spassionato anche ai nostri ascoltatori. Potete chiamarci all'800 24 00 24. Doris, ovviamente gli ascoltatori si chiedono anche: questa polizza però ha dei caricamenti, lo dicevamo prima, costi non ce ne sono. Eccoci di nuovo ritornati a Salvadanaio. Oggi siamo ritornati a parlare di un tema che abbiamo affrontato spesso nella nostra trasmissione, i conti di deposito, ma non tanto per parlare quelli che ci ricordiamo, di quelli che insomma parliamo abbastanza frequentemente, il conto arancio, tanto per fare un esempio su tutti, ma di quei prodotti invece che hanno avuto un'evoluzione nel corso degli anni e che per cercare di essere un po' più remunerativi hanno sfruttare la fiscalità più incentivante, appunto hanno agganciato al tradizionale strumento del conto corrente appunto anche delle soluzioni di investimento. Per Banca Mediolanum è stato per esempio il caso di una polizza vita, IV Power, che è il conto appunto di IV Bank, invece è l'associazione avviene appunto con i titoli di Stato. Tra l'altro volevo per un attimo tornare a Vincenzo Tedeschi di IV Bank per capire, visto che praticamente avete 3 soluzioni, no, di deposito che praticamente si aggancia a diversi titoli di Stato. No, volevo capire, siccome è difficile per un titolo di Stato stabilire a priori quanto può rendere, visto che un'asta chiaramente dipende dal mercato, dipende dalla domanda, anche dall'offerta degli investitori, come si fa a stabilire con un arco temporale insomma prefissato, preventivo, quanto può rendere il conto? No, beh, il rendimento del titolo di Stato è determinato dal prezzo di acquisto, poi il rimborso sarà sempre a 100. Quindi banalizzando, senza considerare... Mi faccio un esempio pratico così lo facciamo capire a tutti, sì. Esatto, stavo dicendo, banalizzando senza considerare la fiscalità, i ratei di emissione, i disagi, gli scarti, se compro un bot a 99 e alla scadenza mi verrà rimborsato a 100, il mio rendimento è 1. La differenza tra 99 e 100. Quindi si può stabilire in via prioritaria proprio grazie attraverso questo meccanismo. Sì, e infatti da noi il cliente non fa altro che comprare un bot a un prezzo ovviamente più basso del prezzo di scadenza, e la differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo di acquisto è proprio il rendimento. Il sistema è molto semplice perché ovviamente rende al cliente tutto questo trasparente. Il cliente digita l'importo, non vede neanche il prezzo di acquisto del bot, e di quell'importo vede gli interessi che prenderà netti alla fine del vincolo e quindi alla scadenza del bot. Scrivo 1.000, 10.000, 100.000 euro e vedo direttamente, che ne so, i 1.500 euro degli interessi che prenderò alla scadenza del bot a un anno. Massimo Doris, Banca Mediolanum, ma andiamo invece al vostro conto Freedom, questo conto appunto di cui si è discusso tanto, ha agganciato una polizza vita appunto proprio per garantire una remunerazione più ampia rispetto ai tassi di mercato, e però insomma per avere questa remunerazione intanto bisogna considerare che su questo conto bisogna parcheggiare stabilmente almeno 15.000 euro. Allora, non è proprio così, nel senso, è vero ci sono 15.000 euro in fruttiferi, ma siccome è un conto corrente, e il conto corrente è non un investimento, è un conto corrente vero con pieno utilizzo, il cliente usa, spende, entra denaro, esce, semplicemente se nel conto corrente ci sono depositati più di 15.000, l'eccedenza va nella polizza e quindi ha una remunerazione. Se scende al di sotto, scende a 10.000, 7.000, 5.000, continua a utilizzare il suo conto corrente, non avrà nessuna somma che dà un rendimento, ma nel momento in cui gli arriva un bonifico in entrata che lo riporta, che so, a 30.000, 15.000 finiscono di nuovo nella polizza e quindi rinizia la remunerazione, quindi non si deve preoccupare lui. Lui lo utilizza e l'eccesso finisce sempre nel conto corrente, fino a un massimo di 1.000.000 di euro. Che infatti è il massimale, perché tra l'altro, fatto bene a precisarlo, perché non per tutti i conti di deposito è questa la soglia massima alla quale si può arrivare, in media si arriva a 100.000 euro. Per quello che vi riguarda, Tedeschi, qual è il massimale fissato? Noi non abbiamo massimale, si può comprare anche 100.000.000 di euro. Va bene, 800 24 00 24, prima di continuare ad esplorare i prodotti di queste due banche, sentiamo anche le domande degli ascoltatori che ci chiamano da casa. Abbiamo un altro Massimo insieme a Doris, abbiamo Massimo da Monza, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Un'informazione, questi prodotti che usufruiscono dell'agevolazione del 12,50%, sono ugualmente garantiti come gli altri dai conti di deposito normali da Banca Italia? Il fondo interbancario di tutela dei depositi, Massimo. La ringrazio perché giustamente lei dice, insomma, non sono conto corrente, sono conti correnti, però sono conti correnti agganciati a soluzione di investimenti. Allora là che cosa vale? Quale principio vale? Massimo Doris, ovviamente ammettendo che il periodo che abbiamo visto nel 2008 non dobbiamo vederlo più, perché io mi ricordo, l'ho raccontato tante volte, sembrava che tutte le banche dovessero fallire, e avrò fatto almeno 15 trasmissioni nel giro di due mesi sul funzionamento del fondo interbancario di tutela dei depositi, e adesso per altri 10 anni minimo non ne parlerò più. Però insomma, ovviamente sperando che nessuna banca mai fallisca nel nostro paese, tocchiamoci tutto quello che va toccato, però insomma per questo prodotto valgono queste garanzie? Allora, per il nostro prodotto, per quanto riguarda i 15.000 euro, quelli sono garantiti da quel fondo, mentre per quanto riguarda la polizza è di una compagnia di assicurazione, quindi non una banca. Lì la garanzia la dà la compagnia stessa, quindi è una polizza con capitale garantito dalla compagnia. E come, in che modo si può fare questo? ISVAP, che è l'organo di supervisione delle compagnie di assicurazione, obbliga, controlla sia i tipi di investimenti che vengono fatti in queste polizze, e sia obbliga le compagnie d'assicurazione ad accantonare, a fare degli accantonamenti in bilancio proprio a copertura, a garanzia dei sottoscrittori di queste banche. Quindi praticamente, per essere chiari con Massimo, praticamente questa tipologia di prodotto non è garantita dal fondo interbancario? Quella della polizza no, è garantita dalla compagnia e dalla regolamentazione che obbliga la compagnia a iscrivere a bilancio degli accantonamenti proprio a copertura di questa garanzia. Vincenzo Tedeschi, per quello che vi riguarda invece? Sì, per noi c'è da dire, non l'abbiamo detto prima, che anche il nostro prodotto in realtà è abbinato a un conto corrente dal quale transitano tutte le somme che vengono Quindi come tale rende IVPower Investimento, per esempio, garantito dal fondo interbancario? IV Power Investimento, abbiamo detto prima che ha due tipologie. Nel caso dell'IV Power Semplice, l'acquisto del BOT è di fatto garantito dallo Stato, perché l'investimento è un investimento in titoli di Stato, al pari di qualsiasi altro investimento in BOT, BTP o CCT. Quindi lì la garanzia è addirittura superiore, perché è quella dello Stato italiano. Nel caso in cui invece si scelga l'opzione Turbo, che è quella che dà un rendimento aggiuntivo, come spiegavo prima, l'opzione Turbo è un prestito titoli, quindi lì la garanzia è la garanzia di IV Bank e quindi è la garanzia della banca e del gruppo UBI. Ricordo che IV Bank è parte, diciamo, del gruppo UBI, quarto gruppo bancario italiano. Infatti, sì, mi scusi che non l'ho ricordato, io avrei dovuto farlo io all'inizio. Vabbè, ormai la conosco talmente bene che mi sembra sempre tutto molto scontato, invece non lo è. Ha fatto bene a ricordarlo. Allora, faccio l'assicuratore, ci chiede un ascoltatore al 349-238-6666. Potete chiarire l'aspetto dei caricamenti nella polizza, Massimo Doris, perché insomma in tutte le polizze vita che conosciamo, le vostre come in tutte quelle delle altre compagnie e delle altre banche, naturalmente ci sono dei caricamenti iniziali che molto spesso rendono non proprio agevole anche il disinvestimento da questi prodotti. Lei ci ha assicurato che per quello che riguarda la polizza vita agganciata al conto Freedom, questo è un problema che non si pone, ce lo assicura, per cui chi volesse aprire un conto corrente Freedom e attivare anche l'opzione con la polizza vita, il fatto di travasare costantemente denaro dalla polizza appunto per garantire la remunerazione del 2% esclude la possibilità dell'esistenza di caricamenti. Non so se sono stata chiara, ma lei mi avrà capito sicuramente. Caricamenti non ce ne sono né in entrata né in uscita. Ormai gli ascoltatori si chiedono: ma allora se non ci sono caricamenti, se non ci sono costi per il cliente, dove guadagna la compagnia d'assicurazione? Semplicemente, se io sto dando il 2% al cliente, significa che gli investimenti mi stanno rendendo un po' di più, il 2,20 ad esempio, quindi io ricevo il 2,20 come rendimento, riconosco 2 al cliente e 20 centesimi me li tengo io. Ma se io dico 2 al cliente, il cliente 2 avrà, non un centesimo in meno. C'è un altro ascoltatore che, anche tra quelli che non si fidano dei prodotti di cui stiamo parlando, c'è invece qualcuno che lo utilizza in maniera soddisfacente, sempre tornando a Mediolanum. Alessandro ci scrive: io ho da più di un anno il conto Mediolanum e gli interessi puntualmente arrivano ogni giorno. Quindi l'accredito degli interessi maturati, Doris, vengono fatti quotidianamente addirittura? Sì, sì, giornalmente la polizza cresce dell'importo, appunto, del 2% giornaliero, 2% su base annua ovviamente calcolato ogni giorno, quindi ogni giorno si vede l'importo crescere. E invece per quello che riguarda i vostri prodotti tedeschi, in questo caso il riconoscimento degli interessi maturati avvengono a seconda, diciamo, del vincolo del deposito? Sì, avvengono alla scadenza del vincolo, quindi 3 mesi, 6 mesi. 6 mesi oppure un anno, perfetto. Allora, volevo anche un attimo rivolgermi a quegli ascoltatori che ci stanno scrivendo, insomma state facendo lo spot alle banche, ma io voglio dire, per chi ascolta Salvadanaio, io la conduco dal 2004, sapete benissimo che invitiamo sempre tantissime banche, tantissime società di gestione del risparmio, per cui ora, il tema è che questi prodotti sono finiti sui giornali, se ne parla tanto, qualcuno ci ha chiesto di tornare un po' ad affrontarli. Io non mi sembra che sto facendo lo spot a nessuno, poi è il mercato che fa più o meno lo spot alle società, per cui vorrei chiarire questi aspetti molto con grande precisione. Siccome sul conto Freedom, io l'ho detto, allora Doris, andiamo ad affrontare subito questo problema, così accontentiamo anche come sempre i detrattori di tutto. Per le modalità con cui pubblicizzavate conto Freedom un anno fa, l'autorità antitrust vi ha messo sotto i riflettori, vi ha comminato una banca, poi non mi ricordo neanche se avete fatto ricorso o meno, una sanzione da 200.000 euro. Sulla pubblicità sono intervenuti degli aggiustamenti, però voglio dire, come le riceve Mediolanum, me le ricevono tante altre banche, le compagnie di telecomunicazione ne ricevono una al giorno, e anche stamattina Soldi e Dintorni mi sono occupata dell'ultima di Telecom di 500.000 euro, perché fa conoscere i nuovi piani tariffari ai clienti attraverso la modalità SMS, non dà l'opportunità di esercitare il diritto di recesso, per cui, allora, visto che vi ho fatto questo spot, si difende anche. Come è finita la storia con l'antitrust, Doris? Allora, abbiamo fatto ricorso, ma voglio dire, raccontare da dove arriva la multa. Come dicevo, questo è un conto corrente senza alcun vincolo per il cliente, quindi il cliente utilizza. Come funziona? Io verso, che so, 50.000 euro, 15 finiscono nel conto e 35 nella polizza. Poi però io utilizzo, spendo denaro e quindi inizia a scendere la parte del conto corrente. Spendo 1.000 euro, vado a 14.000 certo. Conto corrente. cosa faccio? Non vado a prendere 1000 euro subito e li metto dalla polizza e li metto nel conto, ma resta invariata, non si muove nulla fino a che non si scende al di sotto dei 13.000 euro. Quindi a quel punto vado a prendere dalla polizza e riporto il conto a 15. Viceversa, mi arriva lo stipendio e da 15 passo a 16, non accade nulla. Solo quando si va al di sopra dei 17 prendo i soldi dal conto e li metto sulla polizza. Quindi ci sono 2.000 euro in su e in giù per muoversi, per evitare di fare trasferimenti magari di 50 o di 100 euro, di poche cose. Perché è partita questa spiegazione per spiegarci l'indagine dell'antitrust? Perché dicevano, allora non è vero che la pagate dai 15.000 euro, ma dai 17.000, perché se uno ha lì 17.000, è 17.000 l'infruttifero. È vero anche che se ne ha 13.000, sono solo 13.000 gli infruttiferi. Il saldo medio, difatti, è un po' al di sotto dei 15. In ogni caso, ed è difficile dire tutto questo in 30 secondi, alla fine abbiamo deciso di dire 15.000 ma a partire da 17, non parliamo neanche dei 13 nella pubblicità per essere tranquilli. La verità è che poi c'è la pubblicità, ma il cliente sottoscrive attraverso un family banker che spiega queste cose. Tant'è vero che non abbiamo avuto un solo reclamo, dico uno, di clienti che si siano lamentati per il fatto di questa soglia dei 17 e dei 13. Benissimo. Allora, siccome io sto facendo gli spot, stamattina Tedeschi, ovviamente lo faccio anche a voi, Mario vi scrive: IVBank è la miglior banca di sempre, 5 anni cliente, felice su tutta la linea, conto e investimenti. E sempre per Vincenzo Tedeschi una domanda di Rosita dalla provincia di Lecco, che saluto. Buongiorno signora. Finalmente una signora che interviene, perché qua sembra sempre che i soldi in famiglia, sui conti correnti, li gestiscano gli uomini, ma altro che, ci dica tutto. Li gestiamo in coppia, anche se sottolinea che io non ho niente a che fare con il mondo della finanza, ma sono istruttrice in moto, dunque si figuri. Che bello. Detto questo, vorrei chiedere al signor Tedeschi, che sono una sua cliente da, penso anch'io, 4-5 anni, e fino un po' di tempo fa ero felicissima, mentre ora sono un po' arrabbiata e sto pensando di tradirlo con la Mediolanum. E così via. Ah bene, proprio addirittura stiamo facendo questo sì. Cross. Sì. Infatti ho detto questa volta qui chiamo. E niente, sul mio conto corrente, quando mi sono trovata un tot di 10.000, 20.000, 30.000 euro, mi sono detto, vabbè, li reinvestiamo in una maniera più redditizia, visto che non ne abbiamo bisogno di sicuro per 360, 180, 160. E abbiamo valutato il turbo per farlo rendere un po' di più. Sì. Cosa è successo? Che ci hanno sputato sui miei poverini di soldi, perché dicono, sono vecchi, non li conosciamo questi soldi. La somma nuova, vi diamo la possibilità di sfruttare il turbo, altrimenti no. E allora io per ora sono ancora con l'IVBank, ma voglio proprio andare a trovare Mediolanum. Credo tra l'altro, Rosita, che sia un problema che riguarda IVBank, come però molto spesso molti altri suoi colleghi che ascoltano la nostra trasmissione, quando abbiamo organizzato trasmissioni di questo tipo, hanno contestato anche a tutte le altre banche. Chiaramente per recuperare clientela nuova si fanno promozioni nuove, naturalmente molto interessanti ed allettanti. Sulla vecchia clientela invece generalmente gli si riconosce qualcosa. Tedeschi, allora che cosa facciamo? La consegna a Massimo Doris, Rosita, oppure se la vuole tenere? No, assolutamente. Cosa facciamo? Assolutamente vorrei tenerla, anzi intanto colgo l'occasione per ringraziare anche il precedente cliente e devo dire che effettivamente in alcuni casi i nostri clienti ci imbarazzano. Abbiamo fatto da poco un sondaggio su tutta la base clienti, dal quale è emerso che la soddisfazione della nostra base cliente è del 92%. Ecco, so anche che il suo ufficio stampa adesso si arrabbierà con me perché non ho ricordata questa indagine. L'ha fatto lei giustamente. Effettivamente una percentuale molto alta, se pensiamo che nelle banche tradizionali questi tassi sono intorno al 50%. Noi abbiamo chiesto come prima domanda: è soddisfatto della banca, la consiglierebbe a un suo familiare o a un suo amico? Il 92% ha risposto di sì. Effettivamente è un dato forse eccezionalmente alto per qualsiasi prodotto e servizio rivolto al consumatore. Detto questo, insomma, Rosita dice che voi avete proprio guardato con supponenza il suo risparmio. È vero, noi non abbiamo mai fatto promozioni di questo tipo sui nuovi e vecchi clienti. In realtà quella che lei cita è una promozione legata alle nuove e vecchie masse. Effettivamente abbiamo fatto una promozione per le masse nuove che accrescessero i saldi dei clienti, masse alle quali abbiamo riservato una remunerazione più alta. In effetti è una pratica che effettivamente premia l'apporto di nuovi capitali da parte dei clienti, però ecco, questo non discrimina tra nuovi e vecchi clienti, ma solo tra nuovo e vecchio apportato. Doris, io però ovviamente le devo far rispondere anche sul caso di Rosita, perché è molto tentata di venire da voi. Cosa ne pensa di quello che abbiamo sentito adesso, a parte tutto, ma magari Rosita ci dà così l'opportunità di parlare anche effettivamente della clientela tradizionale delle banche, che molto spesso sembra essere un po' lasciata in secondo piano rispetto ai nuovi potenziali invece clienti. Voi peraltro avete una potenza di fuoco enorme sul territorio, che è data dai vostri consulenti finanziari, dai vostri banker appunto, i vostri promotori. E quindi però insomma ai vecchi bisogna pensare nella stessa maniera, dar loro la stessa dignità, anzi forse maggiore rispetto ai nuovi. Cosa pensa? Allora guardi, a difesa di Ivo Ben, di Tedeschi, devo dire che la differenziazione che ha fatto lui, non si tratta di nuovi e vecchi ma semplicemente di nuovo denaro, quindi chiunque mi porti nuovo denaro do queste condizioni indipendentemente che sia nuovo e vecchio. È una differenza insomma da sottolineare, non è banale, è un qualche cosa che abbiamo utilizzato anche noi in passato, quella per nuovo denaro, condizioni particolari. Nel caso di Freedom però, vecchi, nuovi, denaro vecchio, denaro nuovo, non importa, riceve la stessa remunerazione, in questo momento il 2% netto per tutti, vecchi o nuovi, denaro vecchio, denaro nuovo. Allora, io ho un minuto di tempo prima di chiudere, riesco a far fare la domanda a Fabio da Roma, che però mi deve promettere, deve essere telegrafica. Fabio, buongiorno, anche se mi rendo conto che forse avrebbe bisogno di una risposta più articolata, magari che la facciamo per iscritto, ci dica. Allora, la mia domanda è questa: io ho sempre fatto negli ultimi anni conti deposito vincolati, partendo Inge Direct 6%, adesso c'è WeBank che mi dà il 3%, fra un po' di mesi finisce, ma non si può organizzare un conto vincolato poliennale a 2 anni, a 5 anni, a 10 anni? Ah vabbè, guardi, quindi lanciamo agganciati magari ai tassi della BCE più uno spread magari per la banca. E chissà che non ci stiano pensando le banche che sono all'ascolto da noi tedeschi, è un'operazione tanto improbabile quella che Fabio suggerisce? Visto che è un appassionatissimo di conti di deposito, sì, Fabio. Beh, per la verità noi ce l'abbiamo già. Noi abbiamo una versione dell'IV Power che si chiama IV Power Rendita. Ah, eccolo qua, sì. Che è un deposito a 10 anni in pratica. Di fatto è un'obbligazione che mese per mese restituisce una cedola mensile, come se fosse proprio uno stipendio aggiuntivo, di tasso uguale al tasso BCE. Benissimo, Tedeschi, devo salutarla. Doris, teoricamente Freedom è, come dire, scadenza illimitata. Sì, scadenza illimitata, il tasso viene stabilito di 3 mesi in 3 mesi. Comunque la soluzione che cerca questo cliente gli dà un'obbligazione. Ecco, perfetto. Io vi ringrazio per essere stati con me, speriamo di aver chiarito le idee ai nostri ascoltatori, e comunque il tema è che anche il conto di deposito, insomma, si va sviluppando sempre di più, le offerte sono tante, cercate di fare attenzione, fatevi una chiacchierata con il maggior numero di consulenti, speriamo che non vi confondano ulteriormente le idee, se sarà necessario. Noi torneremo di nuovo su questi argomenti. Io devo salutarvi, noi torniamo in diretta lunedì. Volevo solo chiudere salutando e ringraziando per la sua collaborazione di un anno Alessandro Longoni, che da oggi ci lascia, purtroppo per me ho il cuore a pezzi, però insomma ci lascia, nel senso, non fare gestacci Alessandro, perché ha terminato appunto il suo stage con noi e mi dispiace molto, ma gli auguro davvero tutto il bene del mondo. Noi ci sentiamo lunedì, buona giornata a tutti.